che quando ne sono posti di scolo sì, infatti, aspetta che cambia un microfono. Cosa? Cambia un microfono. Sì. No, già, sto usando il microfono normale. Adesso sei tu lì. No, perché a tenere in mano il sure è pigianti e a me mi rompe perché non ci sta qua. Ma questo qua ti fa la voce come verticale, perfetta. Oia, già c'è solo un po' che mi ha marrotto in giro, dice ti mando il fattorino con i soldi e una busta, poi il fattorino prende il tuo l'apparato, me lo spedisce a me, poi ti chiede il numero della carta, vai ammazzati. Ma no, non è fare di queste cose che ti butti, la carità, tutti questi giri strani, uno deve per spedire i soldi e tu mandare l'apparecchio, un po' finito lì, non la deve fare i giri strani. Come questo falso che è stato veramente un cappa di Viterbo, e io ci ho potuto diventare Viterbo comunque, e comunque è stato sincero, e me l'ha fatto, mi ha fatto vedere quello che è, e io gli ho fatto la fotografia di tutto il baracchino, la scatola e il coso suo, bello, messo, poi tiro il cartone, me l'ho insaccato, vedo come ho passato la grande, tutto incerottato, mi sente mio, mi destinatario lui, e ho scritto fragile, e le posso detto guarda che non esiste più fragile, e allora, vabbè, se ormai lo lascio passare, va bene, ho scritto alto, e vabbè, comunque, tutto a posto, ho fatto la foto e poi anche della ricevuta come l'ho spedito, ci ho speso qualche 3-4 ore in più perché il peso e poi l'ho messo veloce, vabbè, comunque, lui mi ha mi sembra di giro per il coso, il baracchino, 0,50 euro, anzi che 0,40, vabbè, comunque non fa niente, anche se ho rimesso qualche cosettino non c'è niente, però l'ho venduto bene, dai. Vabbè, più o meno quanto le fa nel futuro. Scappa. E niente, e poi avevo messo il tuo, in vita mi ha contattato questo di Carlo Forte, mi sembra, di Marazzucchino, non mi ricordo, e gli ho scritto tutto io, e lui mi ha scritto, ma ecco, lui non ci dovete creare le sue mie, non so, non ne ho, o ti mi dirigo, o ci ho tre abili a luci, e è sparito. E allora, se io ti scrivo che ho questo qua, disponibile, l'ho messo in vendita, cosa mi dice che anche i baracchini? Ma infatti, quelli che ci girano attorno e che non sanno che cosa vogliamo fare per me. Ce ne sono fatti, così a me uno mi ha fatto fotografare l'apparecchio, di lato, sopra, di fianco, me l'ha fatto accendere, l'ho messo in frequenza e ho chiesto un controllo per vedere come usciva, mi ha detto benissimo, già sta facendo benissimo, va bene. E glielo ho fatto sentire, gli ho fatto un filmato, poi ha voluto vedere se funzionava l'orologio. Beh, alla fine sai cosa mi ha detto? Siccome non c'è il microfono originale, non te lo prendo. A me mi serve col microfono originale. Ma dimmi, dopo che mi ha fatto fare tutte queste stronzate qua, adesso la prossima volta caro volo, usci e basta. Ma io l'avrei bloccato direttamente. Va. Vabbè, cosa lo dico? Lui mi ha detto le poste, ma lo vuole assicurare il pacco? E lui ha detto, sì, dipende quanto mi costa. E non credevo avere il foglio della roba che c'è dentro, c'è il nuovo, quanto l'ha pagato, che funziona. Ascolti, lasci stare. Sì, la roba è dentro, ma c'aveva anche la sua custodia. Allora, il baracchinotto con la sua scatola originale e più le istruzioni. È come se fosse nuovo. Ho capito, però se tu vuoi assicurare un pacco, devi dare tutti i documenti, come l'hai contratto, quanto l'ha pagato, se vuoi assicurare così, e lo devono anche vedere quello che si è messo dentro. È un casino già, no, è già sigillato, ma c'è per te. Beh, mica apri un pacco, grazie a voi. Cioè, non esiste, dai. E vabbè, interessante che faccia buon uso di quell'apparato, le piace, sì, infatti non vedo l'ora che ritirarlo, tu vai tranquillo. Ho detto c'è una persona onesta e mi piace. Io te lo sto spedendo e sono tranquillo. Quando ti arriva venerdì mi chiami e mi dici se è tutto qui. E vabbè, comunque, è stato verso le 3 alle poste dove c'è il conto corrente e l'ho fatto lì. E hai fatto bene, così c'era poca gente. Grazie. Ehi, poca gente, ma non ho aspettato mezz'ora. Con il numero che c'avevo, con la P, quindi. Poi la Fifi mancavano tre numeri, c'ero, ci ho passato io. Perché tu quando vai alle poste devi fare la prenotazione, come faccio io? Prenotto, arriva, ti dà l'orario, a quell'ora tu vai, prenotato, tutta la gente vedi qui la brugnendi e tu entri, capito? Perché quando c'è la prenotazione vai direttamente dentro. Lo so, ma io non lo so fare. E bisogna scaricarti il sito delle poste. Ce l'ho, io ho anche il mio conto corrente sul telefonino, entro, metto la mia password, entro dentro in quanto tutto, faccio bonifico anche per mio figlio quando avevo un taglio. Praticamente tu metti prenotazione, ticket postale. Ma lo metto quando sono dentro le cose delle poste. Ci provo a cercare, fugare, non fare qualcosa del genere. A me l'altro giorno mi ha prenotato Marco perché non ero in casa, l'ho detto a mio figlio, mi ha prenotato lui, sono arrivato, tutti murrugneggiano, scusi ma non l'ho fatta io la legge, cioè io sono prenotato, le poste ti danno queste opportunità e quando c'è tutto il manzale in occhio, vabbè che c'è più sul vai. Lo so, purtroppo. Io quando andavo a mattina presto facevo la fila, cavolo, e veniva questo qua per la più parte, c'ho la prenotazione, piede in culo, pazienza. Ti guardano ben male, è per quello che mi dà fastidio, ti guardano tutti male. Lo so, dice mi vedo per il congresso giusto. Vabbè, e che ci vuoi fare? Andare. E io domani devo andare alla TP a fare l'abbonamento a Marco. Ma tu ci pensi che io venerdì devo mangiare torta anche domenica, che ne ho già le palle piene? A me per poco non mi ricoverano oggi. Perché? Perché dice che c'è le analisi sballate, l'analisi per glicemia, 240, ma secondo me arriva a tutti, ma l'ho misurata oggi a casa, avevo 95 stamattina e poi mi è salita a 102 dopo pranzo. Immaginati tu la terrazza. Ma io sto andando bene, 140, 120, 170, la notte un po' sale, poi riscende, la mattina mi alza un po' caretto, 180, poi riscende, ma che ci rabbiglia l'usci, io sto sempre controllando, grazie a Dio. Ma lo sai che questi sbalzi, a me lo stesso la notte che mi sale, però la colpa è mia perché mi aveva dato 40 unità da fare di notte, io ne stavo facendo 30, stavo provando con 30, mangiando di meno e invece non funziona con 30. Te l'ho detto, ma è detto, non può provare a fare questi esperimenti, però deve stare attento con quello che mangia. Allora sì, magari poi ti viene fame, dopo che la misuri ti mangi un arancio e te la mangi a tazza. A me mi è aumentata da 20 a 22, basta, unità. E allora ti spiego cosa è successo. Io tempo dietro avevo due insuline, una per il giorno e una per la notte. E poi stesso lui me l'ha data, ecco, quando ce l'ha provata la fai a 16, ok. Solo che l'ultima visita che ho fatto a Fonco, dell'insulina, parlando, ho fatto vedere quella che prendo, la notte, eccetera, eccetera. Ah, dopo, qualche volta quando ce l'ho mi faccio ancora questa qua. Dopo la grigia, 16 unità, ma tu sei pazzo, è perché ti può venire un blocco glicemico, ma se me l'ha data lei, ma se farà il giorno, 16 unità, io me l'ho già inventato, buttala via, e vabbè già me la butto, e lui se mi va di mare, cazzo mia me la roba poi ci fa di mare, te la piglia luce. Magari come usata, allora io ho quella per la notte e quella per il giorno, praticamente quella del giorno io secondo cosa mangio me la regolo io, lui mi ha dato fisso 22, però se vedo che mangio un po' di più la ne faccio 25, capito? Non ammetto di tanto, è così irregolare, va bene. Il problema è la notte, perché io mangio poco la notte, no? Misuro la glicemia, va bene, tutto quanto, magari anche a 125, 128. Poi cosa succede? Che non ce la faccio a resistere tu lì. Qualche cosa me la devo mangiare anche mi tendo male. Io se mangio mi sento bene, se non mangio, se mangio poco mi intendo debole. Io ci sono ritratto tanto, mangio un pezzo di pomodoro, la mozzarella già. Glicemia bassa. La notte forte, mangio pochissimo, voglio andare un po' a dieta, glicemia bassa. Se mangio la pasta asciutta, mazza Alitelli, Bruzzento, la biglia Rossi, ha giovato, c'ho un desiderio, non faccio la pasta. Avevo un bel ragù che avevo fatto il giorno prima, era in frigo, me l'ho saldato, potevo andare in spaghetti, ma mazza glicemia, non posso mangiare nulla. Se mangio un panino, mazza glicemia, e c'è la biglia Rossi. Ehi, è così, così lo so. Per stare giusto devi mangiare come gli uccellini. Un uccellino ce l'ha presente, quindi devi mangiare solo che noi siamo grossi e abbiamo bisogno di più sostanze di un uccello, capito? E allora io non ce la faccio a mangiare poco poco. Mi viene la gana, ciccia. E allora mangio meglio il gelato, c'è la biglia luce. Hanno fatto questi bei gelati tipo magno, che sono tutti coperti di pistacchio. E dentro il cioccolato. Tanto giorbone già. Ah, che benedica. Graziato. No, adesso io ci devo ritornare venerdì. Ha detto che facciamo un bel discorso. E mi fa vedere questo qui da portare in terapia. Ma adesso ci dice, era cucente, era dice dell'altro infermiere, guarda i valori da portare in terapia intensiva. Guarda che io ho un figlio a casa, ho Tyson, ma lo posso la gara azzurra, stiamo scherzando. Perché vanno sballarsi? Io gli ho portato il libricino, comunque lui mi ha detto pure cerca di dimagrire, se no è inutile che vieni qua. E io mi compro perché sono obbligato a venire qua, l'ho detto tutto. Lei voglia o non voglia, sembra mi ci dà la mazza, sa che mangio qualcosa in più, ma che ho fame, devo morire di fame io, non so più io. Se calo qualche chilo, è bene, a me lo voglio anch'io che calo, non è che non me la stai dicendo lì. Cerco di calare, se non c'è un calo, pazienza. Tony, fatto è quello, sono a periodi, no, io a periodi faccio dieta, proprio di quella ferrea, poi non ve la posso più, più potente, poi questa malattia ti porta anche a te la fame, ti fa venire fame, stare dentro, ti invoglia a mangiare, capito? E comunque ho fatto i peggiorati da, poi ho preso anche il magno, poi ho preso anche il cornetto, quindi lunghi grandi grandi, maxi, poi ho preso il cornetto alla panna, poi c'ho i ghiaccioli, poi c'ho i pinguini, poi c'ho quell'altro che è tutto il riso intorno con la marina dentro, ma c'ho una bella provvista di gelati. E invece io mi sono comprato, non so che cosa, di quelli. Ehi, cazzo Gianni, ma le guide si fa trattare che dice mio, femmina. No, ti fa salire, come si chiama? La glicemia, tanto le selle, io le caramelle che avevo tutte quelle grosse con mosa, le guinze, le faccio tutte da parte. Dunque, che ci fa? Io sono un pazzo di liquidità. Ma no, no. Non parliamo che l'anno scorso ho mangiato 6-7 castagne arrosto, che me la sono fatte così buone, cazzo mi ha alzato la glicemia 350, ho chiamato l'ospedale e mi ha detto, le castagne ti fa salire la glicemia, non gli mangiare, sta droppando castagne e tutto. Che peccato. Vabbè, le castagne a me non è che mi attirano più di tanto, me le mangio solo secche, mi piacciono quelle secche che sono dolci, che rimangono un po' morbide. Infatti che ho tutto quello corrente, quelle legame qua, bucato, tutto, porca miseria, vabbè pazienza. Allora castagne più, niente. La mia avuta la buca, un gusto, mi ha avuto questo marale, ha già provato già, ma sa che c'è mia, la sabbia luce, state guardando su internet, finti, in effetti, che c'è la glicemia. Ma non c'è altro nessuno questo canale. Prima di andare a mangiare tu rifiuti di guardare il giornale alle 8, quindi quasi ora. Eia. E anche io tra un po' vado dentro e cerco di scartoffare qualche cosa. È veramente a morire di fame, ma lo dottore. E poi lo sto per dire, dottore, ma anche se il pulpito viene la predica. Anche lei è bello cicciottello. Il mio no, il mio è quello longilino, adesso se ne fa anche sport. C'è cavolate, io ero a Genova con un paziente, sono andato a Genova in nave, sono ritornato in nave, io cosa posso sapere quello che fa questo paziente? Dice vi mettete a piangere, telefonate una volta e poi vi mettete a piangere qua. Io non sto piangendo più, sto solo dicendo come sono le cose. No, ma questo mio dottor Mancillo, no? Da quando era Palazzo Rosa. Quello prima del male è andato, cerca di dimagrire, mangia poco, cammina molto, bla bla bla bla. Un bell'anno sono andato lì da lui a far la visita e mi dà le vaccinette che si è candidato. La prima cosa che ho fatto, quando sono uscito dal cassonetto, immagini mi l'ha fatta. Gloria, si approfitta, no? Io gli ho detto, va bene, tu mi scusi se l'ho disturbato, dottor, no, no, si preferisce, non è quello che è stato tutto dolce, no, dottor, mi scusi, però ero un po' preoccupato perché ho visto che c'era la glicemia alta, e non ho mai avuto così 240 a casa. Io mangio leggero invece la notte e cerco di regolarmela, infatti poi c'ho il vizio, mi viene che il sonno mi trovo, poi mi sveglio all'una, mi controllo la glicemia, allora mi prendo sia quello per il flusso e mi faccio l'insulina, mi controllo la glicemia e mi faccio l'insulina, sì, ma la glicemia sempre a 170 la notte, non mi alzo, c'ho sempre quel vizio di addormentarmi prima e poi mi risveglio. Vabbè, pazienza, vabbè. Dai già, che io sono per trattare che sto sbagliando, sono fuori, è di casino. Ok, dai, ci sentiamo, dammi bene, buon carico, cosa lo fai e mangia poco gelato. Ciao, ciao. Gli animali due lo bucciuvi. A dieta, ciao. Purtroppo si attira, non è colpa mia. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.